Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Aspetta che la telecamera del cellulare si accenda per commettere la sua violenza. Soltanto una ragazza gli urla di fermarsi mentre gli altri del gruppo lo incitano. Comincia a tirare schiaffi, pugni, ginocchiate contro un uomo di 37 anni, residente ad Olbia, con disabilità psichica. Mentre lo picchia e inveisce contro di lui, nessuno interviene su questo giovane di Sassari con il braccio fasciato. Il video e l'aggressione durano poco più di 30 secondi, tanto basta per far barcollare la vittima che perde senso e cade a terra, riportando ferite e una frattura alla gamba. Qualcuno posta il video su Facebook, forse per vantarsi della bravata, ma le immagini risultano fondamentali per individuare l'aggressore. Un energumeno con il taglio di capelli alla Jenny Savastano, per sentirsi probabilmente più tosto, con un braccio legato al collo, con un tutore probabilmente a una spalla lussata, picchia a sangue un ragazzo più fragile di lui. Ragazzi, uno 37 anni, uno 36 anni, si parla di uomini. Si vede l'inizio del filmato, il ragazzo sta quasi in posa, sì, perché gli hanno detto ti facciamo una foto, tutti i lazzaroni attorno a lui, pronti a vedere lo spettacolo. In realtà il bulletto di paese gli si avvicina, comincia a prenderlo a pugni, vuole dimostrare che può massacrarlo anche soltanto con un braccio, e probabilmente per fare quella dimostrazione di perizia marziale, pare che sia un cultore del taekwondo, un'arte marziale coreana, ha scelto probabilmente il più fragile del gruppo, un ragazzo disabile, disabile psichico, quindi con una fragilità psichica diagnosticata al 90%. Lo prende a pugni, un pugno, un altro pugno, poi gli sbatte la testa sul cofano di una macchina con selvaggia furia, lo prende a ginocchiate in faccia finché non va a terra, steso, supino, immobile. Gli gira un po' intorno, bofonchia qualcosa in sardo stretto, non capisco cosa. Mentre lo picchiava sente la voce di una donna che lo chiama per nome, dice Bachisio, Bachisio, smettila, ma intorno girano altri ragazzi, qualcuno sta sicuramente filmando. Questo filmato viene preso, viene prima condiviso attraverso WhatsApp a stretto giro, ma naturalmente circola, comincia a circolare, la voce circola e la notizia è cominciata a circolare anche sui giornali. Oggi ne parlano i maggiori quotidiani d'Italia. Il responsabile sta ancora a casa, tranquillo. Addirittura sul suo profilo Facebook, dove c'erano postate le foto e i film, chiede scusa, umilmente scusa, dice poi vi spiegherò perché l'ho fatto, però vi dico non è disabile. E questo è il primo punto, il punto doloroso, vigliacco, che racconta tutta la storia. Dice che non è disabile perché? Perché non ha una sedia a rotelle, perché all'occhio fa una vita che sembra uguale a quella degli altri, ma un ragazzo con delle fragilità. Una persona che andrebbe protetta invece diventa il bersaglio di un macismo esasperato, esattamente la stessa cosa di chi stupra ragazze, picchia donne o se la prende con persone omosessuali. Sceglie le persone meno in grado di sapersi difendere, isolate, e che rafforzano la compattezza generale del fatto che siamo tutti uguali, pensiamo tutti nella stessa maniera, guardiamo tutti nella stessa direzione. Volevo analizzare alcuni punti di questa vicenda. Oggi l'ho commentata sul mio giornale, sulla Stampa. Mi hanno chiesto ieri un commento, l'ho scritto con il telefonino, tanto ero arrabbiato e tanto veniva fuori dal cuore. Il commento è legato a una proposta del segretario dell'IDV Ignazio Messina, un politico che legge la notizia sui giornali, se ne accorgono tutti, interviene il ministro Maria Elena Boschi, ministro per le riforme, è uno schifo, bisogna intervenire, fare qualcosa, cioè facciamo una legge con pene più severe. Il mio pezzo è titolato Pene più severe per chi? Non servono assolutamente a nulla. Ho ripostato su Twitter il titolo del mio pezzo dicendo che per me cosa servono le pene più severe, è un'idiozia totale. Più severe per cosa? Un energumeno del genere si spaventa per la minaccia di 2 anni più di prigione, uno che picchia un disabile a mani nude, lo filma e lo fa mettere su Facebook e si spaventa per 2 anni più di prigione, secondo voi? Qual è invece il problema? Il problema è le persone che stanno attorno a lui, che non vedono in quello qualcosa di particolarmente riprovevole, anzi quasi un atto di giustizia, un atto di salute generale per il mondo. Togli di mezzo una persona disabile, togli di mezzo una persona che potrebbe inquinare comunque la compattezza dell'umanità. E qual è il percorso di ragazzi come questo, di cui sappiamo soltanto delle violenze che subiscono perché vediamo qualcuno che è talmente stupido e cretino da mettere il video su Facebook? Guardate, vi assicuro, me lo confermeranno oggi gli ascoltatori, che è un iter molto lungo, comincia ai primi anni di scuola, quando sei un bambino un po' diverso dagli altri, che ragiona diversamente, più taciturno o più loquace. Prosegue per tutti gli anni del liceo, quando sei vittima dei bulli, perché sei il secchione, sei il numero uno delle possibili angherie degli altri che si equalizzano e si rafforzano. Le insegnanti fingono di non vedere, dicono che in fondo così ti svegli, così imparerai a vivere e via dicendo. Prosegue avanti nella vita quando a un certo punto scompari, non ci sei più, come questo ragazzo che era fuggito di casa per andare in discoteca, per fare quello che facevano i suoi amici, perché era naturalmente tenuto sott'occhio dalla famiglia che sapeva dei suoi problemi. E finiscono quando? Finiscono quando sei immortalato in un video che appare ogni tanto sui giornali e telegiornali, perché qualche carabiniere o poliziotto, su indicazione di un magistrato, mette una telecamera nascosta in quei luoghi dove tu sei destinato a finire, e si vede che la tua vita continua a essere costellata di gente che ti prende a calcio e ti sputa in faccia. 800 24 00 24, tra poco. Melog, Cronache Meridiane. Vedi, è il mio amico Claudio Quadra! Ma Ciccio! Ma chi commettila? Io con una mano ti ammazzo! Ma capi! La smetti! Ma chi? Boh! E bummi! E Bachisio ha fatto vedere agli altri che lui è il leader, il più forte, quello che si può prendere anche con un'altra persona, con un braccio solo, lo picchia con un braccio solo, sai che atto di forza, contro una persona che pensava che gli scattasse una fotografia, stava lì, si era aggiustato il colletto e la camicia e sorrideva e aspettava la foto e sono arrivati i pugni in faccia. Hai sentito? Non erano carezze, non erano schiaffetti, hai sentito che botte. Quanto fa rumore un pugno sulla faccia di una persona. Bachisio oggi sta lì, tutti diranno che poi alla fine in fondo è un soggetto recuperabile, viveva in un contesto problematico. Una volta lo beccarono, andò in discoteca con un fucile in spalla, non so per quale altra ragione, quindi era una persona già sotto sorveglianza, quindi una persona a sua volta già bisognoso comunque di supporto. Io ho osato scrivere, trovo stupido e trovo anche abbastanza demagogico dire aumentiamo le pene, mi hanno subito attaccato tutti, quelli che su Twitter sono pronti a lanciare campagne per un gattino abbandonato o per un tacchino di Natale o per un agnello di Pasqua, nella stessa maniera in cui oggi si sentono i paladini del ragazzo disabile picchiato. Figuriamoci se non mi sento io paladino del ragazzo disabile picchiato, potrebbe essere mio figlio fra 10 anni quel ragazzo, nelle stesse condizioni. Vi dico, è inutile continuate a scrivermi, allora cosa facciamo? Gli diamo un premio? Prendono in giro, allora diminuiamogli la pena, mi prendono con ironia in giro perché non sono stato quelli che diciamo oggi pena. No, secondo me è un discorso culturale molto più vasto, un discorso che appoggia su qualcosa di mellifluo, qualcosa di stucchevole quanto impalpabile, che è il consenso sociale perché il disabile mentale sia comunque tenuto da parte, perché comunque rappresenta un pericolo, perché tutti pensano che comunque quello è qualcosa con cui bisogna fare i conti. È come quelle leggi speciali venivano fatte qualche decennio fa, nemmeno tantissimo tempo fa, che facevano sì che per il bene della razza queste persone andassero sterminate dalla nascita. Stefania, buongiorno. Sì, buongiorno. E niente, lo sto ascoltando. Queste cose un po' mi commuovono. Allora, no, secondo me è parte tutto quanto dal fatto che hanno tolto l'educazione civica a scuola 20 anni fa. E detto questo, c'è una codardia in giro che fa paura, cioè anche tra fratelli, tra colleghi, cioè tutti pronti a prevaricare il prossimo, e questo si vede anche nella guerra che c'è in circolazione. Cioè allora, io prendo atto della sua giusta commozione, sì, però non vorrei sempre generalizzare e dire signora mia che mondo siamo. Io sto parlando di qualcosa di molto preciso. Questo ragazzo colto nella fase centrale della sua vita, quindi 37 anni, preso a pugni e schiaffi nell'indifferenza comunque di alcune persone, esatto. Il cui fatto è diventato diventato un fatto di cronaca solo perché gira un video su YouTube. È un episodio isolato? Quante persone che hanno un problema simile in famiglia possono oggi raccontarmi episodi simili? Io sono convinto che questo ragazzo che avrà subito atti di bullismo a scuola, figuriamoci, e che è destinato comunque, quando i suoi familiari e genitori che gli sono così vicini oggi, a finire in uno di quegli istituti di cui oggi vediamo drammatico e schifoso trattamento in cui deve subire, è un problema che va trattato in maniera generale, è un problema culturale. La disabilità psichica nel nostro paese viene considerata in maniera superficiale, come se non esistesse, come se fosse un problema che prima si rimuove e meglio è. Però vorrei partire proprio dall'episodio in sé, perché di questo parliamo. Nicola Pinna, buongiorno. Buongiorno a voi. Nicola Pinna è collega della Stampa che dalla Sardegna, penso tu sia stato il primo a tirare fuori questa storia. La tua fonte era la famiglia stessa che a un certo punto, penso, in qualche maniera ti abbia raccontato che era successo questo episodio, o mi sbaglio? Sì, abbiamo raccolto il primo disperato grido di aiuto da parte della famiglia, che in quel momento chiedeva l'impegno delle forze dell'ordine e l'impegno anche delle persone che hanno visto, perché venissero individuati i responsabili di questo terribile episodio che tu hai raccontato così bene. Quindi abbiamo dato voce alla famiglia, che è stata ascoltata per fortuna anche dalle forze dell'ordine immediatamente. Già ieri i carabinieri di Olbia hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Nuoro il bacchisio che abbiamo sentito prima urlare contro il ragazzo disabile. Tu non hai saputo interpretare una parte della frase. Mi spieghi cosa dice alla fine? Ti aiuto io, ecco, ti aiuto io, dice è ora boh, cioè vuol dire nel slang insomma adesso basta, non farlo più. Sostanzialmente, ecco. Non si capisce bene che cosa, magari insomma. Tu ti sei fatto un'idea, conoscendo meglio di tutti noi comunque il contesto in cui è avvenuto questo fatto, di cosa possa essere accaduto e quale sia, diciamo, proprio l'humus sociale in cui si è verificato, l'indifferenza degli altri, la discoteca, la famiglia d'origine? Allora, io ieri sono stato nel quartiere in cui l'aggressore abita, Sassari, nel quartiere di Monte Rosello. E tutti parlano di questo ragazzo come uno che, come dire, spesso e volentieri si trovava coinvolto nelle risse, che ha dei precedenti, cioè giocava a fare il piccolo boss di paese, qualcosa del genere. E infatti i commenti che si sono letti tra ieri e avantieri sulla sua pagina Facebook dimostrano, secondo me, che è stato sempre circondato da persone che lo hanno rispettato per il suo essere prepotente, per il suo approccio così duro nei confronti degli altri. Molti gli hanno scritto: bravo, hai fatto vedere che sei uno coraggioso, bravo, hai fatto vedere che il più forte in giro non c'è più, facendogli credere che forse il più forte è lui, ma evidentemente non è stato questo. Ecco. Tu sei d'accordo? La mia è una lettura superficiale, che lui vuole dimostrare che anche con un braccio solo era capace di massacrare una persona, perché c'aveva questo braccio al collo e lo picchia, ci ti picchio anche con un braccio solo. Lo dice apertamente: io ti ammazzo con una mano sola. Voleva dimostrare davvero di essere il più forte, di essere invincibile, imbattibile. Certo, era facile di fronte a un ragazzo così indifeso. Che non accenna nemmeno una reazione, rimane immobile, quasi non capisce che gli sta succedendo. È come picchiare una persona. Certo, non so se avete visto la prima parte del video, il ragazzo addirittura si sistema la maglietta, è convinto che gli stiano facendo una foto, sta fermo. Probabilmente anche un ragazzo disabile, se si rende conto di essere in pericolo, se non altro accenna almeno a fuggire. Beh, ragazzi, lui non ha proprio capito cosa stava per succedere. Se ha una diagnosi che al 90%, leggo dal nostro giornale, è disabile. Sì, è vero. È chiaro che nell'ignoranza generale che c'è diffusa nel nostro paese verso la disabilità psichica, che non si vede, non ha spesso una stigma così evidente, può sembrare una persona come le altre, però ha dei grossi problemi di relazione e problemi cognitivi. E lui insiste a dire: non è un disabile, per lui non è un disabile, ha picchiato semplicemente una persona che magari si è resa colpevole di avergli fatto uno sgarbo, una lesa maestà, una mancanza di rispetto nei confronti del suo atteggiamento da mafiosetto di paese, penso sia qualcosa del genere. Credo che siano le classiche dinamiche, insomma, di una serata in discoteca con insomma un abuso magari di alcol. Questo nell'ipotesi mia non è ovviamente provato, ma insomma nelle discoteche avvengono insomma degli episodi strani, insomma delle dinamiche particolari dove è facile fraintendersi, dove è facile appunto sentirsi offesi anche da uno sguardo. E questo devo dire, facendo un po' di autocritica verso la mia Sardegna, a volte è bastato uno sguardo per innescare terribili risse finite anche del sangue, e probabilmente questa un po' si avvicina a un episodio di questo genere. Senti Nicola Pinna, come mai secondo te all'inizio è tornato a casa, ha inventato una scusa, sono caduto dalla moto, ha cercato quasi di coprire questo episodio? Come succede a scuola negli atti di bullismo, esattamente la stessa cosa? Secondo me la dinamica è la stessa, me lo ha detto il fratello con il cuore rotto dal dolore, dice si vergognava di dirci quello che gli era successo, forse anche per il senso di colpa di essere uscito di casa di nascosto mentre il padre dormiva per andare in discoteca con questo amico, che poi amico in realtà non era, ha dimostrato di essere tutt'altro che un amico. Ah, proprio Bacchiso l'ha accompagnato in discoteca? Sì, sono andati in discoteca insieme, sì. Ah, quindi si lui sono incontrati per caso. Ah, lui l'ha andato a prendere a casa e l'ha portato in discoteca. Telefonicamente da un po' di tempo, esattamente. Quindi avevano, diciamo, fra di loro comunque sia una sorta di legame d'amicizia o di frequentazione, perlomeno. Sì. Lui lo considerava un amico. Senti, per quello che ti risulta a te, qual è stata la reazione sociale? Per adesso tu dicevi la mia Sardegna, ma io penso che questo episodio potrà accadere in Sardegna come può accadere in qualsiasi altra parte d'Italia. Ne conosco tanti, ahimè, molte volte me ne raccontano tanti, occupandomi io nello specifico di problemi del genere. Ecco, secondo te qual è stata poi la reazione sociale c'è stata attorno a questo episodio? Beh, c'è stata grandissima solidarietà nei confronti della famiglia e si è raggiunto un po' l'obiettivo che il fratello di Luca si era prefissato, cioè quello di scuotere le coscienze, di innescare anche una riflessione un po' più ampia che andasse oltre l'episodio singolo, cioè perché voglio dire, al di là della violenza che è fortissima, inaudita, c'è un altro aspetto che tu già prima hai sottolineato, che vuol dire è un pugno nello stomaco, cioè l'indifferenza di quelli che sono stati attorno, che non si sono minimamente preoccupati di difendere Bacchisio. C'è anche una ragazza che dice Bacchisio fermati, Luca non è stato difeso da nessuno. Ma guarda, nella prima immagine, che appare oggi sulla stampa, sul nostro giornale, vedo su sfondo anche due ragazze tranquillamente appoggiate a un'auto che guardano. Erano in tanti a guardare, ma non sono intervenuti. Hanno trovato perfettamente normale che qualcuno facesse il video e lo mettesse in rete, come se fosse un gesto epico, una sorta di punizione collettiva nei confronti di una persona irregolare che comunque andava celebrata in qualche maniera. Ci fermiamo un istante con Nicola Pinna, riprendiamo dopo le informazioni della borsa. Dalla Brexit all'immigrazione, dall'Europa alla Cina, dall'Iraq a Molenbeek, tutti i temi più caldi dell'estate in un'ora di grande attualità internazionale. E poi le analisi e i racconti dei grandi eventi del nostro tempo. Risorse e materie prime, ambiente, cultura, letteratura, religione, al di là degli stereotipi e senza censure. Voi andate pure in vacanza, il mondo ve lo raccontiamo noi. Sono Giampaolo Musumeci, anche quest'anno, zaino in spalla, ho viaggiato e indagato storie e fenomeni. Ora riaccendo il microfono per raccontarveli. Se anche voi pensate che nessun luogo è lontano, vi aspetto dal 1 agosto, tutti i giorni, alle 16, qui, su Radio 24. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Melog, cronache meridiane. Stiamo parlando del caso di una persona di 37 anni che è stata presa a pugni davanti a una discoteca in provincia di Olbia, una persona disabile, e il video è stato messo in rete e tutti gli amici dell'aggressore e forse anche dell'aggredito, se amici possono essere chiamati, stavano attorno e nessuno ha mosso un dito. Stiamo cercando di capire meglio se dietro questo problema ci sia un problema più diffuso di incapacità di percepire come una persona debole, una persona che abbia dei problemi psichici, sia una sorta di generale trascuratezza nel considerare i problemi di una persona che si relazioni diversamente dagli altri, anche se l'apparenza non ha la stigma indelebile dell'handicap. Infatti l'aggressore dice, poi vi dirò, secondo me non era una persona con handicap, lo dice in maniera naturalmente più cruda. Michele, buongiorno. Buongiorno agli ascoltatori e buongiorno allo studio. La sto ascoltando. Io ho fatto una tesi sul bullismo e mi ritrovo puntualmente su questa situazione ogni qualvolta i media ne parlano e il caso arriva alla voce di tutti, ecco. Vediamo se ci, aiuta, se, ci aiuta, se ci aiuta a capire un po'. Sì, allora, quello che è successo in Sardegna è l'ennesimo caso che si manifesta in Italia, in ogni luogo dell'Italia, perché nelle fasi, nelle varie fasi dell'età, ecco, si sviluppa, succede la bravata, la ragazzata, in questo caso vabbè, stiamo parlando di un'età un po' più evoluta, ma succede perché? Perché manca uno strumento che disciplini, che regolamenti, che vada a regolamentare il comportamento anche dei ragazzi e che soprattutto li dia un controllo cyber, perché il video è diventato virale, perché si sa che oggi questo diventa mediatico in men che non si dica, perché lo strumento è... Allora vi faccio capire bene, Michele, visto che lei ha studiato il problema, io ieri a caldo quando mi hanno detto, sai, adesso propongono una legge apposta, dico sì, la legge apposta in questo momento non trovo sia la cosa principale di fronte a qualcosa che ormai ha quasi, non dico il consenso, ma perlomeno l'indifferenza generale, cominciando proprio, come dice giustamente lei, dagli episodi di bullismo nelle scuole, che comunque, per quanto ci sia un'attenzione generale pubblica, si è mosso il MIUR, ma la reazione più evidente è stata quella dei cattolici crocifissi che dicono no, diventa scuola di infinocchimento ai nostri figli. Scusate, la radicalizzo, ma è così, la vera paura seminata che tutti i corsi fatti per civilizzare le persone, per evitare episodi del genere, siano in realtà dei corsi per togliere la facoltà di avere una certezza di genere nei ragazzi. E questa è la vulgata che è passata di più. Andando avanti, questi che non sono ragazzi, ha ragione, sono uomini, mi scrive un'ascoltatrice, smettete di chiamare ragazzi, un 37enne, un uomo, sia la vittima sia il persecutore. Ecco, qual è lo strumento secondo lei che potrebbe in qualche maniera aiutare anche un processo di cultura e di civilizzazione in termini proprio legislativi? Guardi, io glielo dico proprio col cuore in mano. Io sono stanco di sentire nelle scuole, in giro, perché spesso giro nelle scuole, casi del genere e trovarci nuovamente a parlare, a politicizzare dell'argomento. Pensi i danni che vengono fatti attraverso un atto di bullismo sono irreversibili. Chiaro. E ne pagano le conseguenze questi ragazzi che ne passano questo fenomeno, passano questo episodio e lo portano vita naturale durante con sé. E allora noi possiamo parlare di politica, possiamo parlare di religione, possiamo parlare di MIUR. C'è uno strumento legge fermo alla Camera che è l'1261 da un anno. Poteva disciplinare, poteva dare almeno una direttrice su come comportarsi, perché i docenti, la polizia, i carabinieri che sono in prima linea non hanno dove. È vero che il MIUR ha fatto un ottimo lavoro sul social, ha fatto anche la Polizia di Stato con i vari progetti, però non hanno uno strumento per affrontare il sistema. E mi creda, nelle scuole, soprattutto quelle periferiche, ecco, magari in prima linea. Ma scusi, ma quello di cui parla il segretario dell'Italia dei Valori, Ignazio Messina, quello che aumenta fino a 12 anni, non meno di 12 anni, in reclusione, la pena minima. No, l'1261 si fonda molto sulla cultura. Ecco, io quello strumento l'ho letto, l'ho fatto mio e posso dire che veramente investe tanto sul patrimonio culturale da trasmettere. Quindi alla fine Michele, mi dai ragione, esiste uno strumento ma è fermo lì, arenato, perché forse non è demagogicamente cavalcabile, quindi in questo momento alla fine rimane lì, galleggia, speriamo qualcuno riprenda in mano. Giuseppe, buongiorno, grazie Michele. Giuseppe. Buongiorno dottor sì. Nicoletti, complimenti per la trasmissione agli ascoltatori. Ascolti, io volevo dire solo questo, un mio pensiero. Secondo me è vero che aprire le condanne non serve a niente, come dice lei, e la penso nettamente come lei. Però secondo me dovrebbero arrestare anche le persone che hanno girato questo video e l'hanno messo in internet. anche perché complici di quella persona lì che ha combinato questo. Questo va da sé, arrestare adesso non so se sono passibili arresto, comunque di incriminazione, assistere comunque a un pestaggio di una persona più debole e filmarlo, non fare nulla, non intervenire, non denunciare, esserne complici, sono comunque complici di un atto criminoso. Mi scrive un ascoltatore via SMS: povero Mona, è la vita, il più forte vince, è dura ma è così. Ma non può essere considerato il più debole rispetto al più forte una persona che ha un problema dalla nascita, una persona che non si può difendere perché ha un problema. Non siamo due su un'arena a parità di risorse, vince il più forte. No, è una persona che già nasce con uno svantaggio rispetto agli altri, che non si può difendere, non può reagire, i suoi atti sono condizionati dalla sua instabilità di tipo psichico, è come se non avesse le gambe e non potesse camminare. Questo deve passare come culturalmente accettato, esistono persone che hanno comportamenti diversi. Nicola Pinna, torno a Nicola Pinna, ricordo il giornalista della Stampa che ha sollevato il caso, lo sta seguendo e sta seguendo la famiglia. Sei d'accordo che alla fine rispetto a quelli che scrivono sul profilo Facebook dell'aggressore, bravo, hai fatto qualcosa di giusto, richiamandosi ad antichi e ormai sorpassati schemi in cui esiste il forte, dimostra sempre la sua forza, e questo ragazzo che ha, poverino, ha avuto dei problemi, possa da questo nascere perlomeno in quel posto preciso qualcosa che faccia almeno ridare un po' di speranza, che proprio non è una cosa che finirà come i tanti delitti estivi e balneari di cui si parla perché non si ha altro da scrivere sui giornali. Insomma, tu hai osservato che c'è una sincera volontà di fare comunque una reazione, di muoversi in qualche maniera, non sia solo quella di arrestatelo e mettetelo dentro il colpevole. Guarda, parto dalla reazione che ho percepito a Olbia, che è la città di Luca, del ragazzo disabile che è stato appunto aggredito. A Olbia l'indignazione è fortissima, ma Olbia è una città, io la conosco bene, che ha dimostrato nel corso degli anni grandi sensibilità da questo punto di vista, una città dove il volontariato, dove l'assistenza agli ultimi, ai disabili, sono come dire delle parti della città molto vive, e quindi insomma la riflessione su quell'episodio trova terreno fertile e ha trovato un coro appunto di unanime che condanna l'episodio. Un'altra cosa, Nicola, mi servirebbe capire, tu forse puoi decodificarmelo meglio, conosci meglio poi i codici locali, come mai una persona così spocchiosa, così violenta, così attenta nel dare sempre di sé l'immagine del vincitore, poi scrive sul profilo Facebook chiedo umilmente scusa, che è una formula che sembra da fumetto, capito? Umilmente scusa, come mai secondo te? Aggiungo un'altra cosa, chiedo umilmente scusa, ma se l'ho fatto un motivo c'è. Probabilmente, come dice il fratello di Luca, voleva un po' come dire, liberarsi la coscienza da quello che stava per quello che ha combinato, non immaginava quello che stava per succedere, ha visto che insomma gli stava franando la terra sotto i piedi, e allora diceva scriviamo qualcosa su Facebook, magari mettiamo tutto a tacere. In realtà ha sortito l'effetto contrario, nel senso che ha dimostrato ulteriormente di essere insomma una persona che probabilmente è forte solo con i più deboli, ha dimostrato di essere anche poco coraggiosa, al punto che dopo qualche ora ha cancellato quel post e ha cancellato contestualmente anche i commenti che c'erano sotto, che meritavano una attenta analisi. Mi sembra che abbia tolto anche non ha reso più visibile il profilo, adesso c'è un profilo addirittura che dice, passiamo il Ferragosto nel prendere a schiaffi Bacchisio Angius, cioè poi sai, queste sono le reazioni della rete che non le servono a niente, che non dicono nulla, esatto, poi non dicono nulla. Fermiamoci solo un istante, poi ho Eraldo al telefono, che è una persona disabile che ha il suo punto di vista. Mi aspettavo qualche telefonata in più dalle famiglie, devo dire. È possibile che tra tante persone che mi ascoltano nessuno abbia registrato nei propri figli, nei propri congiunti, nei propri parenti, degli episodi così vigliacchi di sopraffazione e di violenza nei confronti dei propri figli, parenti, amici, che non hanno possibilità e facoltà di difendersi. A tra poco. Melog. Cronache meridiane. C'è una grande creatività di solito negli esseri umani quando bisogna pensare a delle pene c'è meno creatività quando deve pensare a delle soluzioni di tipo civile, di tipo culturale. Mi scrive un ascoltatore: perché non incanalare la violenza di questo energumeno facendolo salire sul ring con un peso massimo? Sì, anche buttarlo dentro il Colosseo con il leone, non so, ce ne sono tanti di sistemi se uno vuole dare sfogo alla sua fantasia punitiva. Ma guardatevi i filmati dell'ISIS, sono una grande creatività, cioè tanto li facciamo spesso leggere e studiare da un pubblicitario. Se vogliamo andare verso questa deriva, non è certo quella che mi auspico io. Eraldo, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Ma dobbiamo metterci il cuore in pace tutti quanti. Io da disabile posso solo dirti che credo che la storia si possa ripetere. Abbiamo avuto il nazismo che è iniziato con l'azione T4 e ci troveremo fra 20-30 anni con l'azione T5. Noi disabili siamo un peso anche non dichiarato della società a volte, perché quel signore che ha picchiato, signore è un effodismo, l'altro signore è la punta dell'iceberg, quelli che erano attorno sono colpevoli quanto lui, cioè non c'è differenza tra chi commette l'atto e tra chi lo assiste in quell'atto. Pertanto è la polverizzazione dell'umano, dell'essere umano, cioè io non so se dare colpa anche ai giovani, a questi social network, ma credo che ci sia sempre meno sensibilità, sempre meno ricerca di sostenere una società che sia giusta. Credo che la società giusta sia quella del bello e del bravo e chiaramente del social network. Pertanto credo che noi saremo in prima linea fra 15-20 anni a trovarci, a confrontarci col fatto che per la società non siamo utili. Beh, però Eraldo, secondo me mi rendo conto l'amarezza che stai provando, ma la stessa ho provato ieri io, puoi capire, se conosci la mia storia, so che anch'io vedo quel ragazzo mio figlio, chiaro, dico, pensa, quando non ci sarò più succederà questo. E io sono convinto che esista comunque, anche se solo sopita, una considerazione generale, comunque il disabile sarebbe qualcosa, nella migliore delle ipotesi, da tenere lontano dalla società, bene, tranquillo, in un bel posto, che viva bene, che sia sereno, ma staccato. Lo vedo tutte le volte che bisogna contendersi il posto auto con qualcuno, te lo occupa e dice: ma come, a quest'ora tu devi uscire? Perché devi portare tuo figlio fuori a quest'ora? Quest'ora non sta a casa. Però io penso il fatto solo che ne parliamo comunque sia un modesto ma tangibile passo avanti. Quindi non sono poi così pessimista, anche se le considerazioni, quello che vedo, quello che leggo, quello che mi scrivono, mi porterebbero ad essere pessimista. Giulio, buongiorno. Buongiorno. Io lavoro da 12 anni, dopo aver fatto altre esperienze, a scuola. C'è un grandissimo problema di educazione all'antibullismo, perché i dirigenti scolastici, che siccome sono un precario, ne ho girati parecchi, i dirigenti scolastici hanno un timore folle dei ricorsi e delle azioni delle famiglie verso i figli che sono certificati con qualche disabilità, che spesso è reale, ma comunque riguarda l'apprendimento, ma non il comportamento. Quindi non ho ben capito, cioè che le famiglie dei disabili abbiano delle reazioni nei confronti dei... Ma dei disabili, che delle volte non sono neanche veramente disabili, però sono certificati come disabili. Sì, anche, Giulio, come stai facendo un discorso di un'idiozia così profonda che ti faccio la grazia di non dire altro e smettere di parlare. Non credo che tu sia degno del lavoro di insegnante che ti sia affidato, dico solo questo. Renato, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, sono babbo e sono nonno, ma parlo a seguito di quello che è avvenuto in questa circostanza, di cui si sta parlando. Personalmente ritengo che ci sia alla base di tutto un profondo decadimento di quelli che sono i valori della società. Sì, anche questa teoria, scusa, c'è una profonda incultura. Se un insegnante che da 12 anni insegna mi dice il problema è le famiglie dei disabili, che forse non sono disabili, che denunciano la scuola se i loro figli subiscono dei torti, mi fa pensare che c'è veramente molta strada a fare. Ha parlato un insegnante, cui faccio la grazia di non continuare a parlare con lui al telefono, se no i miei toni non sarebbero poi così civili come sono stati finora, che dopo 12 anni che frequenta le scuole dice il problema sono le famiglie che hanno i figli disabili certificati, ma forse non veramente disabili, che poi ti denunciano se succede qualcosa, qualche atto di bullismo. Ma questo mi fa capire che realmente c'è molto da fare. Renato, buongiorno. Buongiorno ancora. Ah, scusi Renato, continui. Niente, dicevo che sostanzialmente c'è una mutazione in quella che è la nostra società, in quelli che sono i valori, per cui valori solamente materiali, però il valore della convivenza, della convivialità, dell'amico, comunque amico, disabile o non che sia, perché anche ho amici disabili, e quindi l'intervento va fatto proprio socialmente, sia a livello didattico, quindi a livello scolastico, ma anche nei comportamenti quotidiani delle persone che occupano dei ruoli attraverso i quali si può trasmettere un'immagine, un comportamento. E questo è il grande cambiamento che ci deve essere, cosa che purtroppo non c'è, quindi una decadenza dei lavori, dei valori. Secondo, il fatto di un intervento drastico sicuramente a livello didattico, ma sostanzioso, perché i bambini devono imparare a convivere e a rispettare, e questo porterebbe automaticamente sì, anche questo a è giusto, eliminare... Questo è giusto, io ragiono in termini razionali. Allora, la disabilità è un fatto reale acquisito, ci sono strumenti ormai scientifici per misurare la disabilità. In uno stato civile questi strumenti scientifici sono al servizio appunto della collettività che definisce chi è disabile, come è disabile, in che maniera è disabile e qual è il tipo di trattamento e di sussidio che deve avere. Ora, che in questa cosa possano esistere anche persone che se ne approfittano all'ordine del giorno, ci sono finti disabili, persone che simulano, persone che lucrano, sono i peggiori nemici dei veri disabili. Ma non è che basandosi, appoggiandosi soltanto sulla fetta dei simulatori si evita di essere parte della coscienza generale che tende a sottostimare questo problema. Questo lo dico ancora per l'insegnante di prima, che per lui il vero problema erano quelli che denunciavano il figlio disabile col certificato, ma non vero. Questo mi fa indignare. Può anche esserci il genitore che esagera, ma questo fa sì comunque che possano esistere un'infinità di altre persone, come ha detto giustamente l'altro ascoltatore, si portano dietro per tutta la vita un problema di essere sopraffatti, essere considerati come materiale umano destinato alla raccolta differenziata in luoghi di segregazione. Mara, buongiorno. Buongiorno dottor Nicoletti. Dunque, lei prima ha detto come mai non chiamano le famiglie con disabili. Io ho chiamato, ma io non ho problemi, sa perché? Perché non lo faccio uscire da solo, perché ho paura. Io ho un ragazzo di 28 anni con la sindrome di Down e ho paura. Una volta a scuola 15 anni fa un ragazzino lo chiamò mongoloide, me lo dissero, andai dalla direttrice e il bambino fu espulso per 2 giorni, 15 anni fa. Io adesso ho paura a farlo uscire solo, perché vede come bisogna comportarsi a questo punto. Non dovrebbe essere nemmeno auspicabile per una persona disabile che alla fine la famiglia diventi il suo carceriere, anche se in nome dell'amore. Avrebbe diritto a vivere una vita insieme agli altri, però capisco. Esce col fratello, con il padre, con me, amici non ne ha perché l'hanno abbandonato, persino i parenti, i cugini, figuriamoci gli amici. È una situazione che ben conosciamo tutti, questa, che ha un figlio disabile in famiglia. Comunque anche il ragazzo sardo era sotto l'amorosa attenzione della famiglia, infatti però a un certo punto a 37 anni ha detto io voglio andare in discoteca, è uscito di casa, scappando di casa e maglia in corsa. Massimo, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, scusami che è un po' una cosa un po' troppo, va bene, praticamente a Viareggio hanno trovato un disabile, un invalido su un pattino a largo. Sì, io non sapevo che fosse disabile, mi hanno detto una persona senza fissa dimora, ha messo su un pattino e buttato a largo così, per scherzo, per gioco. Ecco, ora mi vengono un po' brividi, no? Praticamente penso che questi l'abbiano fatto per scherzo, per gioco, quegli scherzi che facevamo anche noi, però non, diciamo che non è proprio... Beh, poteva morire, poteva lasciarci la vita, non è uno scherzo. Però lei vede, Massimo, ha tirato fuori una parola antica lo scherzo. Però in tutte le civiltà agreste e rurali che ben conoscevo, la beffa, il danno, lo scherzo, la burla collettiva nei confronti di quello che veniva definito lo scemo del villaggio, che era il più sempliciotto, era quello che comunque aveva dei problemi, era una sorta di collante sociale. Però erano altri tempi, non vorrei che in questi tempi rimanesse come reliquia antropologica ancora questa idea che la società si fortifica ai danni del più debole. Alla prossima!